Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda i temi, chiaramente ci occuperemo dello sciopero indetto dai sindacati, come era nell'aria ed era presumibile, però da questo punto di vista abbiamo anche altri dettagli sullo sciopero. Il 12 dicembre, in effetto giorno, dico per inciso, i familiari che rappresentano le vittime di Piazza Fontana hanno chiesto che venga spostata la data perché cadono i 45 anni, quindi crea disagi anche a tutti i familiari delle vittime. Ma insomma, lo sciopero di CGIL e UIL, la CISL invece ha confermato solo lo sciopero unitario del pubblico impiego il 1 dicembre. E un sciopero che interesserà sia i lavoratori pubblici, quello del 12, che i lavoratori privati che lavorano per i servizi pubblici. Ne parleremo nella seconda ora del programma. La Camusso dice che il governo è irresponsabile, cancella la mediazione, noi non ci rassegniamo, non si può governare, aggiunge la UIL, solo con i tweet e quant'altro. E vabbè, parleremo anche dello sciopero, ma parleremo in apertura di una novità che ha scoperto solo 24 ore e riguarda la, si può dire, stangata sui terreni, o meglio che ha un carattere retroattivo, perché l'esenzione IMU per i terreni resterà solo in 1578 comuni, gli altri 2568 avranno un'esenzione parziale. La cosa più interessante, si fa per dire, è che gli effetti si sentiranno già da quest'anno, perché i contribuenti che perderanno il bonus dovranno pagare entro il 16 dicembre l'IMU relativa a tutto il 2014. Sono, se volete, dettagli, ma dettagli importanti per chi ne viene coinvolto. Ancora, per quello che riguarda la giornata, la borsa, l'indice MIBTL è sostanzialmente invariato, così come invariata è Parigi e Francoforte. Londra perde lo 0,41%, l'America guadagna lo 0,20%. Dopo la crescita di ieri dovuta ai dati sulle matricolazioni auto europee, oggi invece perde Fiat Chrysler, meno 4%, perde anche Tenaris, il 2,80% come Saipem, il Monte dei Paschi perde l'1,5%, l'1,30% lo perde Enel, l'1,20% Exor e Jux, l'1,1% Mediolanum e Prismian. E invece bene Todds più 2,70%, Atlantia più 2,10%, STMicroelectronics più 2%, Unipolsai più 1,90%, Mediobanca più 1,5%, Banco Popolare più 1,40%, Intesa San Paolo più 1,20% come CNH Industrial, l'1% lo guadagna la Popolare di Milano e Enel Green Power, lo 0,90% a 2A. Euro a quota 1,2542. E per quello che riguarda invece la chiusura di questa mattina di Tokyo, leggermente debole, meno 0,30%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente adesso le altre notizie in breve. Andiamo con lo spread. Intanto lo spread italiano è a 152 punti, vedo messaggi anche su questo, contro i 153 della chiusura di ieri. Adesso arriveremo anche a alcune notizie sul nostro debito pubblico, o meglio andiamoci subito, nel senso che il direttore generale del Dipartimento del Debito Pubblico del Tesoro, Maria Cannata, ha fatto notare oggi che a fine anno l'Italia avrà collocato debito, cioè titoli di Stato, per circa 450 miliardi di euro, ad un costo medio sotto l'1,40%, che voglio dire è un grossissimo vantaggio se pensiamo a quando invece collocavamo debito fino a qualche anno fa al 3, 4, 5%. Due anni molto positivi, dice la stessa Cannata, e appunto il costo di trovare finanziatori è in realtà l'1,38 0,5%, mentre oggi il direttore della Banca Generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un convegno all'Università di Verona ha ricordato come l'area euro sia sull'orlo della deflazione e l'andamento dei prezzi allo 0,4% a ottobre rischi di disancorare le aspettative di inflazione a lungo termine, cioè di vanificare ogni attesa di un po' di inflazione a lungo termine, tanto che la credibilità della banca centrale nel cogliere l'obiettivo della stabilità dei prezzi è chiamata in causa, ossia vanificare anche gli sforzi della Banca Centrale Europea per mantenere l'inflazione tra intorno al 2%, che è l'obiettivo della Banca Centrale. E poi sempre Salvatore Rossi dice che le misure predisposte dalla Banca Centrale Europea durante la crisi hanno avuto un effetto complessivo sul PIL italiano valutabile in poco meno di 3 punti percentuali nel biennio 2012-2012. Questa obiettivamente non la capisco, nel senso che non si capisce se nel biennio 2012-2013 senza queste misure avremmo avuto 3 punti percentuali di PIL in meno. Nel frattempo è intervenuto sul tema che riguarda l'euro e l'Europa anche l'ex ministro del Tesoro e delle Finanze Vincenzo Visco, che ha detto: attenzione, se non cambiano le politiche europee e della Germania c'è un rischio di tenuta dell'euro che non riguarda soltanto l'Italia ma anche altri paesi. In tema di opere infrastrutturali, investimenti per cui servono anche i fondi europei, noi continuiamo a essere scettici sui 300 miliardi promessi da Juncker, perché non capiamo, a parte che abbiamo letto stime per cui ne arriverebbero all'Italia al massimo 10 miliardi nei prossimi 4 anni, ma non capiamo da dove arrivino questi 300 miliardi. È un extra budget dell'Unione Europea, sono spese già previste e Juncker ci ha messo una mano di bianco, ce le ha un po' abbellite per far vedere che l'Europa non è solo rigore e austerità, boh, così non capiamo da dove arriveranno 300 miliardi. Detto ciò, che gli investimenti servano non lo ricorda solo il direttore generale della Banca d'Italia e anche qualunque osservatore stiamo ascoltando, è parte del commento del Sole 24 Ore e assieme a Radio Dimensione Suono, i famosi 100 secondi di Radio 24 con Radio Dimensione Suono. Oggi autore del commento è il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Monte dei Paschi di Siena, banca dal 1472, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Per creare sviluppo, che vuol dire fare gli investimenti giusti per la crescita del paese, sono necessarie risorse finanziarie pubbliche importanti. Quello che però spesso ci sfugge è che se da un lato è vero che per creare sviluppo, per fare investimenti, sono necessarie molte risorse, dall'altro lato è altrettanto vero che anche il non fare comporta costi per il paese, costi che nell'arco di 15-20 anni rischiano di diventare di gran lunga superiori a quelli che sarebbero stati necessari per realizzare queste opere. Lo conferma uno studio dell'Università Bocconi di Milano che verrà presentato nei prossimi giorni e che valuta proprio i costi del non fare. Secondo i ricercatori della Bocconi, non portare a termine una serie di interventi, sia grandi opere sia piccoli lavori capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini, genera in Italia costi pari a 47 miliardi di euro all'anno. E c'è un altro dato che non arriva dalla Bocconi ma che in questi giorni dà ancora meglio l'idea dei costi del non fare. Ogni euro non speso per la tutela del territorio, per il dissesto idrogeologico, comporta una spesa di almeno 10 volte superiori per riparare i danni prodotti dal maltempo. Insomma, risparmiare oggi farà anche piacere all'Unione Europea, ma qualche rischio per il futuro lo crea, bisogna invece guardare avanti e rilanciare davvero gli investimenti strategici, bisogna farlo con progetti di qualità, sulla base di programmi di lungo periodo e soprattutto sapendo spendere bene le poche risorse che abbiamo a disposizione. Proprio su questo tema, e quindi dove troviamo le risorse per fare investimenti, oggi il sottosegretario Delrio ha detto: ci aspettiamo che arrivi lunedì, già da lunedì, il via libera della Commissione Europea alla nostra legge finanziaria. Questo è il via libera ufficiale, visto che ci aspettiamo che vengano riconosciuti gli sforzi che abbiamo fatto e che sono stati notevoli. Del Rio però, in tema di investimenti, Padula ricordava come i soldi non spesi, per esempio per mettere in sicurezza il territorio, poi abbiano un costo 2-3 volte superiore quando si sviluppano certi fenomeni che poi chiamiamo emergenza, ma l'emergenza spesso l'abbiamo creata noi stessi. Beh, il caso del maltempo è emblematico. Oggi il sottosegretario Del Rio ha detto: una deroga al patto di stabilità per i comuni colpiti dal maltempo, si può esplorare questa idea, come è stato fatto nel passato. Io qui non ci capisco più niente, perché un giorno si dice sì, i comuni colpiti dal maltempo potranno derogare dal patto di stabilità, avranno delle agevolazioni di carattere fiscale, poi si dice no, non si può esplorare. Comunque sentiamo Del Rio. Il tema ovviamente è nelle mani dei ministri che interverranno, quindi certamente collegato col tema dei fondi, come sempre c'è anche il tema degli spazi di patto di stabilità e di esplorare tutti gli spazi attualmente esistenti all'interno delle regole attualmente esistenti per appunto venire incontro anche le esigenze come quella che lei ha citato, perché vi è una possibilità attraverso applicando i principi di solidarietà attraverso i fondi appunto per le catastrofi naturali anche di esplorare questa possibilità, come già è stato fatto peraltro in passato in altre regioni. Ci sono dei parametri precisi e quindi dobbiamo ancora fare la valutazione dei danni precisa, però certamente se vi saranno le condizioni l'Italia farà la richiesta, come è giusto. Abbiamo una regione come la Liguria che è stata colpita da Levante a Ponente, quindi è molto probabile che la Liguria rientri, ma non lo sappiamo ancora, quindi né in questi parametri. Allora, nel frattempo dalla Liguria le aziende segnalano danni per 120 milioni di euro e fino ad ora ci sono 1300 richieste di rimborso. Sono stati prorogati i termini per fare il rimborso, nello specifico 1800 aziende segnalano danni sotto i 40.000 euro, mentre 1300 sono le domande per accedere a rimborsi fino ai 40.000 euro, 120 milioni nel totale. E su questo, tra l'altro, sul tema dell'eventuale proroga della sospensione degli adempimenti fiscali nei territori colpiti dal maltempo, è intervenuto anche il ministro all'economia Padoan, che ha detto: valutiamo uno stop alle tasse, ma occhio ai saldi, perché per il solo periodo 10 ottobre 20 dicembre il costo dello stop è di 3 miliardi di euro. Considerata la persistente situazione di assoluta criticità delle zone alluvionate, una volta avviate le attività emergenziali, l'eventuale proroga della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari potrà essere oggetto di valutazione, considerati i vincoli derivanti dal rispetto dei saldi di finanza pubblica. Secondo gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la stima dell'ammontare relativo alla sospensione dei versamenti tributari di cui al citato decreto per il solo periodo 10 ottobre 20 dicembre 14 è di circa 3 miliardi di euro. La richiesta di totale cancellazione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sarebbe suscettibile di determinare non solo effetti sui saldi di finanza pubblica, ma anche una potenziale situazione di disparità di trattamento con riferimento ad analoghe situazioni verificatesi in passato. Infine, è opportuno sottolineare che l'adozione di misure agevolative a favore di soggetti che svolgono attività economiche è soggetta alla normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, al cui rispetto deve essere improntato. Allora. Allora, Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Da quello che capisco, Padoan dice, beh, attenzione perché per non diventare aiuti di Stato occorre via libera dell'Europa, e va bene. Dice anche che vi sarebbe un saldo, il mancato pagamento delle tasse secondo i termini previsti in queste regioni porterebbe per il solo periodo 10 ottobre 20 dicembre a un costo di 3 miliardi, ma è possibile? È possibile per due ragioni. La prima è che siamo a fine anno e a fine anno il calendario fiscale è ricchissimo di appuntamenti, ci sono gli acconti, IRPEF, IRES e così via, e quindi cresce il gettito. E per di più, in questo caso, il maltempo, le alluvioni e i danni che ne sono conseguiti si sono concentrati su regioni fiscalmente molto ricche, perché abbiamo la Lombardia, abbiamo la Liguria e così via. E il passato insegna, se ci ricordiamo, non per voler fare diciamo una classifica fra regioni, ma quando le disgrazie colpiscono regioni dallo scarso gettito fiscale, la esenzione arriva subito. Quando invece c'è stato il terremoto, per esempio in Emilia Romagna e Veneto e Lombardia, che nelle aree della provincia di Mantova e così via, è stato un lungo tira e molla tra governo, regioni e enti locali, perché lì le esenzioni e le sospensioni, perché poi sono sospensioni e non esenzioni fiscali, non sono arrivate con la stessa celerità con la quale erano arrivate per esempio in Molise, perché lì costava molto di più. Quindi c'è una geografia purtroppo dei... Questo è importante che lo sappia Giove Pluvio e tutti gli dei dell'Olimpo, nel senso che è importante che se c'è una catastrofe naturale in questo paese non deve essere per il fisco, non deve essere a fine anno e non deve essere nelle regioni che contribuiscono maggiormente, diciamo. Allora vabbè, adesso la buttiamo un po' a ridere perché veramente è assurda sta vicenda, ma ho capito benissimo dove va a parare il ragionamento di Gianni Trovati, cioè se la regione è una regione che ha poco gettito fiscale, si fa prima far passare la sospensione dei tributi, soprattutto se non sei in fase di scadenza di riscossione. Se le regioni si chiamano Lombardia e Liguria e appunto ci sono scadenze di carattere fiscale, ecco la stima complessiva fatta dal ministro di 3 miliardi di euro. Un'altra cosa che non ho capito, ma qui Del Rio parla della deroga al patto di stabilità interno. Il patto di stabilità interno, lo dico a tutti, è quel patto più stupido di quell'altro, che è quello europeo. Perché? Perché è ancora più stupido? Perché impone anche ai comuni virtuosi di non spendere i soldi che hanno in cassa. Per cui se tu sei un comune che ha speso male con le consulenze, con gli amici, con le municipalizzate in perdita, non spendi perché sei in rosso. E fin qui tutto bene. Se tu sei un comune virtuoso che ha risparmiato sulle consulenze, che ha risparmiato sugli stipendi, che ha risparmiato, che ben gestisce le municipalizzate o magari le ha vendute, pochissimi questi, però hai dei soldi in cassa, non li puoi spendere perché comunque andrebbero a fare calcolo sul deficit, e quindi il governo dice no, tu anche come ente locale, anche se hai soldi, anche se hai ben amministrato, non li spendi, se no poi ai fini della contabilità generale dello Stato mi vanno nel deficit, io sballo i conti con Bruxelles. Ecco perché è doppiamente stupido questo patto. Io avevo capito che il governo avesse deciso di levare il patto di stabilità interno, quello due volte stupido, no? Avevi ascoltato degli annunci in tal senso. La questione è così. Allora, Del Rio parlava in questa breve intervista che abbiamo sentito poco fa, probabilmente di chiedere deroghe all'Europa. Invece, per quanto riguarda il patto di stabilità interno, che è ancora peggio di come lo descrivevi tu, perché in sostanza se ne frega della spesa corrente e concentra tutta la sua attenzione sugli investimenti, cioè sulle, tra l'altro, cose che servirebbero per evitare i disastri a cui abbiamo assistito in queste settimane. Cioè, se tu paghi troppo di bollette, hai troppi edifici, hai la spesa corrente classica, non importa. Se però tu investi per gli asili, i famosi, mitici asili, ogni volta evocati, e dai comuni, quella è spesa. Investi negli asili, investi nelle infrastrutture, investi nella gestione del territorio, investi negli argini. Tra l'altro non diamo troppo la colpa all'Europa su questa roba qui, perché questa qui è la traduzione italiana, italianissima, del patto di stabilità europea, e così per chiudere il quadro delle colpe, è stata fatta in modo totalmente bipartisan e fedele, allora da Tremonti e poi da Visco, quindi centrodestra, sì, centrosinistra, Italia. Tremonti che introdusse appunto patto di stabilità interno e Visco lo confermò. E anche il taglio orizzontale, se non ricordo male, al 2%. Qual è la situazione attualmente? Il patto di stabilità è pienamente in salute, nel senso che è pienamente in vigore. Dall'anno prossimo è previsto un forte sconto. Sostanzialmente il peso del patto di stabilità si riduce del 70-75%, ora si vedrà, ma era già previsto dalla manovra prima che arrivassero i problemi, le piogge e le conseguenze, perché sostanzialmente la riforma della contabilità che è stata scritta anni fa prevede un congelamento di risorse per mettere gli sconti del patto. Attenzione a non vendere come aiuti per gli allagamenti eccetera una roba che era già prevista. Che riguarda il patto di stabilità interno. Invece il motivo per cui tu sei qui, e non è un motivo allegro, riguarda quello che Sole 24 Ore ha scoperto sulla famosa stangata retroattiva per i terreni. Allora, qui c'è una famosa esenzione IMU per i terreni che riguardava tutti i 3.524 comuni in realtà. Da quello che tu scrivi oggi, le cose cambiano, ma soprattutto finché le cose possono cambiare, è nelle cose il fatto che le cose possono cambiare. Però quello che è assurdo, perlomeno farà storcere la bocca anche qualcos'altro, è che questa misura avrà, e questo cambiamento avrà, un effetto retroattivo. Sì, allora, la situazione fino ad oggi è questa: nei 3.524 comuni considerati dall'Istat montani o parzialmente montani, non si paga l'IMU sui terreni agricoli e così via. Arriva questo decreto, che è un decreto attuativo di una cosa prevista nel bonus IRPEF, che dice no, i comuni montani, quindi esenti, non sono più 3.500 ma saranno 1.500, e in altri 2.000 saranno esenti solo alcuni terreni e altri no. Va bene, si può discutere, magari erano troppi 3.500 comuni montani. Qual è il corollario a cui facevi accenno tu? Che questa regola, una volta in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore subito, chiamerà i contribuenti a pagare l'IMU del 2014, cioè di quest'anno, entro la scadenza del saldo, cioè il 16 dicembre, fra 18 certo. Giorni lavorativi, e quindi è come se fosse in vigore dal primo di gennaio del 2014. Di che cifre stiamo parlando? Perché tra l'altro tu dicevi ci sono i comuni parzialmente montani, quelli con i terreni esclusi dall'IMU sono nelle zone considerate montane, gli enti non montani. Allora, tra i comuni parzialmente montani destinati a perdere completamente l'esenzione, abbiamo Roma, parzialmente montano, Palermo, sì è vero, sì, no, ma il problema Bologna, Messina e Trieste. Il problema qual è? L'Italia è molto variegata. Se tu vai alle Cinque Terre, i comuni sono sul mare, ma poi appena sopra tu hai la montagna, e quindi erano considerati parzialmente montani, e in quei terreni lì c'era l'esenzione. La cifra per quest'anno si parla di almeno 350 milioni di euro. Perché? Perché questi 350 milioni di euro erano stati previsti ad aprile tra le tante coperture del decreto del bonus degli 80 euro. Allora qui c'è un aggravante in più: se l'abbiamo previsto ad aprile, perché il decreto arriva a dicembre? Fosse arrivato a giugno, almeno i contribuenti avrebbero avuto tempo, come dire, di prendere le misure con le nuove norme, perché non scordiamoci che sono contribuenti, sono terreni questi qui, che erano sempre stati esclusi sia dall'IMU ma anche dall'ICI, per cui arriva, come dire, una sorpresa. Ma non è la prima volta, se ci ricordiamo, con la TASI, dopo che appunto c'è stato un lunghissimo dibattito sull'abolizione delle tasse sull'abitazione principale, dopo questa presunta abolizione la TASI ha chiamato alla cassa molti milioni di abitazioni principali di valore medio-basso che erano sempre state esenti dall'ICI e dall'IMU perché prima c'erano le detrazioni. Quindi purtroppo non è una novità. Sì, poi c'è questa vicenda che adesso buttiamola anche un po' a ridere, perché Trento, Foligno, Carbonia, che cosa hanno in comune secondo voi? Per me niente. Eppure, assieme ad altri 567 comuni, Trento, Foligno e Carbonia, sono etichettati come interamente montani. Che allora su Trento, vabbè, Foligno interamente montano, perché non voglio entrare, poi mi scrivono gli umbri, mi scrivono i sardi, però il problema è che siccome registrano, se ho ben capito Gianni, un'altitudine al centro, immagino nel centro del comune, l'altezza del comune inferiore ai 281 metri, è l'uno dell'81 che mi fa impazzire. C'è uno studio dietro, c'è matto uno studio pazzesco. Cos'è montano? Cos'è? Se tu stai a 279 non sei montano. Comunque, i loro terreni rientrano nell'ambito di applicazione dell'IMU. Come mai questo? Sì, perché è sbagliato il criterio, come dicevo prima. Se tu misuri il comune all'altezza, all'altitudine al centro, misurata all'ista, immaginiamoci nella piazza del municipio, non tieni conto del territorio in cui si trova questo comune. E se tu metti una... Sì, in effetti Trento sarà anche 200, non so quanto sia, al centro, sì, dove c'è il Duomo, però attorno è, abbastanza montano. Basta alzare lo sguardo, diciamo, ecco, così, per vedere. Ma è lo stesso errore che si è fatto, se ci ricordiamo, perché poi in Italia gli errori sono sempre quelli. Quando si è fatta tanta ironia su certe comunità montane, certo, di posti marittimi, ma nelle Cinque Terre, le comunità montane, c'è Cinque Terre, c'è casa delle Cinque Terre, no, non ho seconde case, conosco l'IMU, quindi c'ho solo la prima. E quindi vabbè, anche questi 567 comuni che attualmente sono etichettati come interamente montani torneranno in pianura, non sono più montani per decreto, e pagheranno l'IMU. Grazie a Gianni Trovati. Grazie. Mi rendo voi conto lo scoramento che prende alcuni ascoltatori che scrivono al 349-238-6666, però attenzione, anche questa è l'Italia. Dopodiché, se per ora ci sono annunci, rispondo a altri messaggi e promesse e non altro, noi questo possiamo dire, non possiamo modificare e travisare la realtà. Dopo il meteo e la pubblicità, invece, alcuni fatti concreti sui vitalizi. I vitalizi tornano in maniera prepotente, i vitalizi regionali, perché ormai è un movimento di popolo quello che unisce i consiglieri, gli ex consiglieri regionali di Lazio, Lombardia, Molise, Trentino. Hanno addirittura scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Meteo, preparate i fazzoletti per le lacrime e poi torniamo in diretta. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politici zate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu. Ma sì, rispolveriamo Rino Gaetano. Perché? Perché intanto vorrei che il paese si fermasse per un minuto, anche 30 secondi, anche 10 secondi, e si stringesse vicino agli ex consiglieri regionali. Sono 3.200 in questo paese colpiti nel portafoglio dalla decisione che stanno prendendo sempre più regioni in tema di vitalizi. Vitalizio è quella specie di pensione lauta, molto lauta, che prendono i consiglieri regionali, e la prendevano già da 50, dal compimento dei 50 anni. Allora, più volte abbiamo detto che un conto è la diaria, un conto è il bonus, un conto è le note spese, ma perché uno che fa politica per passione, oltre ad avere, diciamo, giustamente i rimborsi, quelli veri, deve avere anche una pensione? Non è un lavoro, però niente da fare. Allora, Lazio, Lombardia, Molise e Trentino hanno tradotto in legge il taglio deciso il 10 ottobre scorso dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli Regionali. Allora, in queste regioni, Lazio, Lombardia, Molise e Trentino, l'età necessaria per avere accesso all'assegno di fine mandato, attenzione, non è che abbiano levato il vitalizio, viene innalzata dai 50 anni ai 65, insomma, minimo, no? Oppure a 60, ma con una forte penalità, oltre a una mini tassa di alcune centinaia di euro sui vitalizi già erogati. Tra l'altro, nel caso del Lazio, all'aumento dei requisiti di età si aggiunge anche un taglio fino al 40% per chi percepisce, oltre al vitalizio da consigliere regionale, anche il vitalizio da parlamentare italiano-europeo, perché sapete che alcuni li sommano queste cose. Oh, non l'hanno presa bene, valanga di ricorsi da parte di centinaia di consiglieri regionali, anche perché nel frattempo Campania, Piemonte e Toscana si stanno muovendo per arrivare a una sforbiciata analoga in tempi brevi. E allora praticamente hanno chiesto, l'associazione degli ex consiglieri, cioè pure l'associazione degli ex consiglieri, ha scritto al Presidente della Repubblica, a Giorgio Napolitano: noi apparteniamo a una storia, sì, lo sappiamo tutti, appartenete a una storia e vorremmo che fosse storia, aggiungo io, scrivono, che solo per ignoranza o malvagità, e certo le notizie di cronaca ce le siamo inventate, può essere demonizzata o gabellata come la fonte degli sprechi e dei costi. Nessuno ha detto che voi siate stati la fonte di tutti gli sprechi e dei costi, ma che abbiate rappresentato un costo e in alcuni casi anche uno spreco. È diverso. Comunque, un applauso di solidarietà ai consiglieri, ai 3200 ex consiglieri regionali uniti in questa lotta per il mantenimento del vitalizio. Tra l'altro l'associazione minaccia di portare la questione fino alla Corte Costituzionale per vedere riconosciuto l'intoccabile diritto acquisito. Ma io dico, ma con che faccia, nel momento in cui stiamo andando a riformare il mercato del lavoro, a ragionare su quelli che erano e sono, fino a che non c'è la riforma, diritti acquisiti, i consiglieri regionali che avranno avuto un lavoro prima di fare consigliere, l'avranno avuto dopo, immagino, chiedono di vedere riconosciuto un intoccabile diritto acquisito. Ma guarda che di intoccabili diritti acquisiti ce ne sono molti pochi in questo momento, cari consiglieri regionali. Tra l'altro pensate che in Lazio, prima del taglio, la spesa per i vitalizi, cioè per pagare la pensione a questi consiglieri regionali, era arrivata a 20 milioni di euro l'anno, cioè un terzo dell'intero costo complessivo del consiglio e più di quanto pagate i consiglieri in carica. Somma analoga l'abbiamo raccontata molte volte anche per la regione Lombardia, cioè sono somme importantissime. Pensa cosa può fare Lazio di serio o Lombardia con 20 milioni, con 15 milioni di euro l'anno. Per cui non conoscono vergogna, ma va bene così. Dalle regioni andiamo al comune di Viareggio. Perché? Perché c'è un buco da 100 milioni di euro portato alla luce dal dirigente dei servizi ispettivi centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Luciano Cimbolini. Porta alla luce un buco di oltre 100 milioni di euro nelle casse del comune di Viareggio, creato negli anni delle amministrazioni di destra e sinistra e da un sistema di società partecipata del comune fallimentare. Allora, praticamente che cosa è successo? Visto che c'è questo buco, il commissario prefettizio Valerio Massimo Romeo, che è subentrato all'ex sindaco del PD Leonardo Betti il 22 ottobre, perché il comune è stato dichiarato in dissesto finanziario, ha deliberato l'innalzamento delle tariffe comunali, così giustamente della gestione fallimentare delle giunte precedenti pagheranno le spese turisti, bambini, i cantieri del famoso carnevale. Praticamente hanno portato al massimo applicabile, senza distinzione di stagionalità, le tasse di soggiorno a carico dei visitatori di campeggio, hotel e affittacamere, raddoppiati gli affitti per la cittadella del carnevale, ma soprattutto, e questo mi fa impazzire, aumentati i costi di asili, mense scolastiche e scuolabus. Chi pagava 25 euro al mese per il trasporto scolastico ora ne spenderà 75, che voglio dire 50 euro in più al mese, no? Le rette dei nidi saliranno degli asili nido saliranno tra il 20 e il 40%, mentre le mense aumenteranno di oltre il 30%, modifiche che dureranno almeno 5 anni. Eh sì, perché il buco lo fanno gli ex amministratori, ma le tasse le pagano i cittadini attuali. Poi ne ho un'altra, ma ve la risparmio per domani, riguarda la Sicilia, perché insomma lì andiamo veramente, usciamo dalla cronaca per entrare nel mito. Ci sono 300 dirigenti nei musei siciliani, ma non ci sono i soldi per le lampadine e i musei non si riescono a aprire come si vorrebbero. Però siccome è una cosa un po' delicata, vi lascio in attesa, in ansia e trepidazione per domani. Adesso c'è il traffico e poi la borsa. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. chiamano ascoltatore i Vital Vizi. Vabbè, però insomma, dai ragazzi, per favore, un po' di decenza. Sul meccanismo di Viareggio, purtroppo non è solo Viareggio, cioè i buchi lasciati da altri vengono fatti pagare poi alla cittadinanza. Bisognerebbe capire anche se c'è qualche azione di responsabilità possibile nella gestione di un comune che poi è dichiarato in dissesto finanziario, no? No, ma sulla Sicilia domani sulla Sicilia. Allora, la borsa, dicevo, chiusura alla fine piattina come tutta la giornata, più 0,11 Milano, più 0,09 Parigi, più 0,17 Francoforte, meno 0,20% Londra, meno 0,12 l'America. Allora, faccio un appello, non lo faccio mai personale, ma all'ascoltatore che mi sta bombardando di SMS sul Monte dei Paschi, non ci sono notizie, ne parliamo sempre, abbiamo fatto decine di puntate sull'inchiesta sulla gestione che ha messo in braga di tela il Monte dei Paschi di Siena, per cui sono accusati Mussari, Baldassari e altri. Abbiamo fatto altre puntate sulle richieste arrivate alla Banca Centrale Europea all'attuale gestione del Monte dei Paschi, quindi Profumo e Viola, sull'aumento del capitale. Non so, forse la banca di cui ci siamo più occupati, ovviamente, di tutto il panorama bancario italiano, cos'altro dobbiamo fare? A me dispiace se lei ha perso dei soldi con Monte dei Paschi, ma non è che posso fare la puntata sulla base delle sue sofferenze finanziarie. Allora, Todd più 2,45%, Atlantia più 2, ST Microelectronics più 1,80, Unipolsai più 1,80, Banco Popolare più 1,5, A2A più 1,30 come Mediobanca, l'1,20 lo guadagna CNH, ma anche Intesa San Paolo ed Enel Green Power, Telecom Italia più 1,1, Pop Milano più 1% come Ferragamo e Generali. Fiat Chrysler perde invece il 3,90, Tenaris il 3,20, Saipem il 2, Monte dei Paschi l'1,70, Jux l'1,30 come Exor, l'1,1 lo perde Mediolanum, lo 0,90 lo perde invece Enel. Oggi tra l'altro è iniziato il roadshow, come dicono quelli che hanno studiato, cioè la visita alle varie piazze finanziarie da parte del gruppo Generali, che oggi ha fatto anche l'Investor Day e ha annunciato un payout, oggi non ce la faccio a leggere queste cose. Allora, una politica di dividendi, cioè quanta parte dell'utile viene distribuito sopra il 40% dal 2015, gli utili già distribuiti quest'anno, non abbiamo più vincoli, ha detto lo stesso Greco, numero uno delle Generali. Abbiamo mantenuto la promessa di trasformare in maniera sostanziale il nostro business senza ricorrere agli aiuti degli azionisti. E poi sempre Mario Greco: non vedo difficoltà dallo scenario macroeconomico, ci auguriamo che i governi dell'Unione Europea ristabiliscano la crescita in Europa. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, oggi le banche in realtà deboli, Monte dei Paschi appunto meno 1,70%, così è contento l'ascoltatore, le altre sono cresciute. Su Generali, qualche reazione dalle parole di Greco? Ma Generali ha chiuso in terreno positivo, diciamo che è stata tutto il giorno positiva, però non è che si sia scaldata particolarmente, no. Anche dopo che l'amministratore delegato ha detto che il piano strategico verrà realizzato con anticipo e che quindi il prossimo maggio la compagnia presenterà un nuovo piano strategico, e poi, come hai detto tu, che la politica dei dividendi sarà particolarmente generosa. Non è che il titolo abbia, come dicono gli operatori, strappato al rialzo, è andato positivamente, però senza grandi evoluzioni. Invece, dopo, infatti, più 0,97%, e dopo il GR24 commentiamo Fiat, perché vista così sembra visto così sembra un calo brusco, meno 3,90%, però attenzione che il titolo Fiat Chrysler Automobiles FCA ha guadagnato una cosa come il 40% d'ottobre. Ne parliamo dopo il GR24, 349-238-6666 per gli SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, continuiamo con la borsa. Eleonora Micheli, si diceva di Fiat, oggi in netto calo meno 3,90%, però va guardato in prospettiva il titolo, cioè da ottobre. Esatto, da quando il titolo ha debuttato come FCA a ieri aveva guadagnato il 44%, quindi come dicono gli operatori le prese di beneficio tutto sommato ci stavano, erano fisiologiche quelle di oggi. Ovviamente ha guadagnato terreno soprattutto sulla notizia della quotazione di Ferrari, oltre che del fatto che ci sarà un passaggio di liquidità superiore ai 2 miliardi proprio dalla società del cavallino FCA. Poi anche ieri le immatricolazioni europee sono andate bene, il titolo era sempre salito e ovviamente oggi qualcuno ha deciso di portare a casa i guadagni dell'ultimo mese. E questo per quello che riguarda Fiat. Tenaris meno 3,22, Saipem meno 2,94%, dicevamo del Monte dei Paschi invece meno 1,70%, Jux meno 1,30%. Allora Telecom da un lato e dall'altro anche Finmeccanica. Telecom ha guadagnato oltre l'1%, è scattato il conto alla rovescia per il consiglio di amministrazione straordinario che si terrà questo venerdì e che affronterà soprattutto due tematiche. La prima è le mosse da effettuare in Brasile con la partecipata TIM Brasil, che dovrebbe probabilmente fare un'offerta ad Oi, altra società brasiliana che a sua volta peraltro è interessata a comprare proprio TIM Brasil. Insomma, in Brasile ne succederanno delle belle. E poi inoltre abbiamo saputo che nei giorni scorsi Telecom Italia ha inoltrato una lettera a F2i, fondo che detiene oltre il 53% in Metroweb, lettera in cui ha manifestato interesse. Oggi si è tenuto il consiglio di F2i, non è venuto fuori niente tranne che è stato confermato che c'è dell'interesse per la quota di Metroweb, oltre che da Telecom, si sa anche da Vodafone Italia. E come ha detto Bassanini, a questo punto si aprirà probabilmente un processo, un'asta competitiva dove poi vincerà l'offerta migliore. Comunque nell'attesa di novità Telecom appunto è salita di oltre l'1%. Per quanto riguarda invece Finmeccanica, seduta a doppia faccia, era partita bene, poi ha chiuso in calo dei mezzo punto percentuale. In mattinata si continuava a festeggiare il fatto che il gruppo Itachi ha proposto di acquistare Ansaldo Breda e secondo alcuni sarebbe interessata anche Ansaldo STS, non si sa bene la cifra che ha messo sul piatto, ma secondo i quotidiani potrebbe essere 1,4 oppure addirittura 1,7 miliardi. E appunto, ripeto, stamattina erano partiti bene, però poi anche l'entusiasmo si è un po' venuto meno, tant'è che i titoli hanno perso lo 0,47%. Migliori e peggiori, Bastoggi, è successo qualcosa sulle Bastoggi, più 33,7%? È successo che se guardi i migliori titoli sono tutti del settore immobiliare. Sì, perché Bastoggi, stavo dicendo Edes più 28 e Risanamento più 24. Esatto, sono titoli innanzitutto che sono poco liquidi e quindi è facile, certo, movimentarli, ma ieri c'è stato un convegno di Ines, società immobiliare, in cui è emerso che c'è molto interesse da parte di investitori stranieri alle aziende del comparto real estate, del comparto immobiliare. E quindi su questa base evidentemente c'è già chi scommette in operazioni e comunque ha deciso di comprare i titoli quest'oggi. Sì, titoli che si muovono con poco, come tu ricordavi, Sintesi più 22%, Bioera più 16%, peggiore invece Salini in pregiro sul risparmio meno 8,70%, poi Gala meno 5,70%, Leone Film Group meno 5,60%. E SAT meno 5,40%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Volete sapere dell'euro? L'euro è a quota 1,25,51. Ma dalla borsa adesso passiamo ai sindacati, allo sciopero indetto per il prossimo 12 dicembre da CGIL e UIL, sciopero generale, mentre la CISL ha confermato solo lo sciopero unitario, cioè con tutte le sigle, del pubblico impiego per praticamente per il primo di dicembre. Discusso con CISL e UIL, ha preso positivamente visione del fatto che la UIL ha deciso nel suo esecutivo di proclamare uno sciopero generale sui temi della legge di stabilità, del Jobs Act, dei temi che abbiamo aperto con il governo, e registrando questa importante convergenza abbiamo convenuto di fare lo sciopero generale di una giornata con manifestazioni territoriali il 12 dicembre. La CISL ha detto che delega la sua categoria di discutere con le altre, ovviamente seguiremo con attenzione, però per noi lo sciopero generale è lo sciopero generale di tutte le categorie. E poi ha aggiunto Susanna Camusso: il governo è irresponsabile noi troviamo davvero irresponsabile che il governo sostenga e teorizzi che tutti i luoghi della mediazione sociale vanno cancellati. Vogliamo dire al Premier, ha continuato Susanna Camusso nel suo intervento al congresso della UIL, che può stare sereno, non abbiamo il rimpianto della concertazione, oggi è meno comprensibile qual è la sua visione e il sogno del Paese rispetto agli anni 90, ma questo non significa poter dire che non c'è luogo dove si contratta con i sindacati. Contrattare è un termine nobile. Su questo anche il segretario generale in pectore della UIL, Carmelo Barbagallo. Ci siamo, su nostra richiesta incontrato stamattina, e la CISL mantiene la sua posizione di non fare uno sciopero generale, la UIL mantiene la propria posizione di fare uno sciopero generale a una data diversa da quella che era stata programmata dalla CGIL, la CGIL conviene sul fatto di poter svolgere lo sciopero generale a un'altra data. E poi la CISL che spiega attraverso la voce del segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, perché non ha aderito allo sciopero generale del 12 dicembre. La CISL conferma la posizione che ha espresso un mese fa, quando la CGIL aveva dichiarato il suo sciopero generale, e stamattina, quando anche la UIL ha dichiarato che farà sciopero generale, e cioè che non ritiene che lo sciopero generale oggi sia lo strumento per arrivare agli obiettivi che noi ci diamo. Quindi confermiamo che noi non faremo sciopero generale, confermiamo che siamo assolutamente convinti che le categorie della pubblica amministrazione tutta, come hanno scelto attraverso una grande mobilitazione unitaria, debbano fare lo sciopero di categoria per il loro contratto, che è uno sciopero diverso, che è specifico su un argomento e che saranno le categorie a decidere nel modo e nella data. Ma la CIS scioperi generali conferma che non ne farà. Punto. Così appunto la CISL, e sentiamo anche il ministro Poletti, così diamo la rassegna completa delle posizioni oggi emerse. Ha detto il ministro del lavoro: non ci sono le motivazioni per lo sciopero, non capiamo le motivazioni portate, visto che si parla della manovra, del Jobs Act e sostanzialmente di questi due elementi, ci sembra che non vi siano le motivazioni per una decisione così importante come uno sciopero generale. Dal mio punto di vista penso che per quello che riguarda la legge delega sul lavoro e la legge di stabilità non ci siano motivazioni per una decisione importante e pesante come quella di imporre uno sciopero, perché siamo di fronte ad una legge di stabilità che è una legge che taglia le tasse e amplia l'opportunità per i cittadini, e la legge sulla riforma del mercato del lavoro aumenta le opportunità e toglie dalla precarietà, introduce un nuovo contratto, il contratto tutele crescenti, che stabilizzerà il lavoro dei giovani. Quindi io credo che non siano motivazioni per le quali valga la scelta di indire uno sciopero. Naturalmente il sindacato ha la responsabilità e la piena libertà di fare, da questo punto di vista, quello che reputa più giusto. E poi il presidente Confindustria Squinzi, che ha detto: in un momento come questo gli scioperi non risolvono nulla, le attività produttive sono così basse che non fanno sicuramente grandi danni questi scioperi, ha chiosato Squinzi, aggiungendo: i tempi medievali dei sindacati sono riferiti a situazioni come quella sull'accordo sulla rappresentanza. Noi stiamo aspettando da un anno e mezzo, dopo aver fatto un accordo sulla rappresentanza, che si mettano d'accordo. Quando parlo di tempi medievali nel sindacato mi riferisco a queste situazioni. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dopo il traffico, il tuo commento, mi sembra di poter dire, allora, massimo rispetto per gli scioperi, i sindacati hanno diritto di fare lo sciopero quando lo ritengono necessario e di votarlo. Mi sembra uno sciopero un po' preventivo, nel senso che la legge sul Jobs Act non è ancora legge, la riforma deve andare al Parlamento, vediamo se e come verrà modificata. Quanto alla legge finanziaria, sì, per carità, può sicuramente non piacere definire una legge contro i lavoratori, obiettivamente mi sembra eccessivo, casomai uno può criticarla perché è una manovra finanziaria che non otterrà la spinta, lo shock necessario, perché se vai a guardarla di shock c'è poco e quindi non produrrà, diciamo, quello scossone necessario al paese, ma dire che vada contro la legge finanziaria, mi riferisco ai lavoratori, boh, forse mi è sfuggito qualcosa. Il traffico prima e poi un tuo commento. Allora, Guido Gentili, la reazione, il sindacato fa lo sciopero, ripeto, il primo di dicembre c'è lo sciopero sul pubblico impiego, che però riguarderà da questo punto di vista non solo i dipendenti diretti del pubblico impiego, ma anche i lavoratori privati che lavorano per i servizi pubblici. E quello sarà unitario, cioè CGIL, CISL e UIL. Il 12 invece solo CGIL e UIL. Cos'è, uno sciopero preventivo? Beh, insomma, assomiglia molto certamente, perché la riforma del mercato del lavoro è un provvedimento di legge, e anche la legge di stabilità ha appena iniziato, diciamo, il suo iter in Parlamento, e quindi vedremo anche come e dove sarà modificata. Quindi questo è un primo dato. Mi sembra che appunto sia una dichiarazione per uno sciopero che diciamo più per forse piantare una bandiera, per diciamo evidenziare una contrapposizione con il governo, politica generale, forse anche perché il governo ovviamente non ha seguito, come sappiamo, i canoni storici della concertazione con i sindacati, quindi insomma mi sembra più un'operazione appunto preventiva che non, diciamo, sì, devo dire con nessuno, non solo con i sindacati, cioè questo è un governo che ha sempre detto, uno può essere d'accordo o no, che lui ascolta i cosiddetti corpi intermedi però poi decide. La concertazione come sintesi tra richieste di una parte piuttosto che di un'altra per annacquare i provvedimenti non li vuole seguire, sì. Per cui non è che ce l'abbia, per essere onesti, proprio solo con i sindacati. Certamente vale anche per le imprese, perché il governo non ha trattato con Confindustria, diciamo, con Confcommercio, con le imprese per l'Italia. Esatto. Certo. E quindi mi sembra che appunto sono comunque tutti i provvedimenti, sia sul mercato del lavoro che per quanto riguarda la manovra di politica economica, che ancora non sono legge e quindi sostanzialmente sono suscettibili anche di cambiamenti nel corso dell'iter parlamentare. Quindi mi sembra uno sciopero da questo punto di vista davvero politico, nel senso di contrapposizione con il Presidente del Consiglio, e mi sembra, devo dire, di buon senso e non peregrina l'affermazione che ha fatto oggi il Presidente di Confindustria, perché insomma siamo in un momento di gravissima crisi, siamo in recessione. Uno sciopero francamente non ha anche da questo punto di vista un impatto diverso da quello che magari possono immaginare i sindacati. Insomma, diciamola tutta, quando tu sei sotto di un 25% sulla produzione industriale rispetto al 2007, che vuol dire che è come se fosse scomparsa un'azienda, un capannone ogni quattro in questo paese, dal paesaggio economico di questo paese è scomparso un quarto della produzione industriale rispetto al 2007, è ovvio che lo sciopero è sempre qualcosa che crea grossi disagi, che crea disagi anche a chi lo fa, nel senso che rinunci a una giornata di busta paga, e non mi interessa, come scrivono alcuni, ma perché lo fanno sempre di venerdì, non lo so, non lo decido io lo sciopero, però è ovvio che l'impatto a livello produttivo è minore, tanto tu praticamente stai già lavorando un giorno in meno su quattro come produzione industriale, di che cosa stiamo parlando? Però mi interessava capire se secondo te questo è l'inizio di ostilità che andranno avanti, o era appunto il modo per chiamare a raccolta il mondo della rappresentanza sindacale e dire, beh, adesso noi non possiamo farci così marginalizzare con ostricidio goccia per goccia dal governo Renzi, chiamiamo a raccolta le forze della rappresentanza sindacale. Ma secondo me è un tentativo innanzitutto di chiamata a raccolta che riguarda i sindacati, e vediamo, diciamo, una sorta di geometria variabile per la quale Questa volta sono alleate UIL e CGIL e la CISL non invece si tira fuori, mentre invece negli anni scorsi abbiamo visto spesso una, diciamo, un abbraccio tra la CISL e la UIL e la CGIL isolata. Quindi questo risponde secondo me a un primo richiamo che riguarda le organizzazioni sindacali, un tentativo, diciamo, di unità. Il secondo è la contrapposizione con il governo e forse anche un modo per piantare una bandiera in vista di altre discussioni che ci saranno al di là della questione sul mercato del lavoro, e mi riferisco in particolare al tema della contrattazione, su cui il governo ha detto che vuole diciamo riprendere in mano e trovare delle soluzioni entro la prima metà del 2015, annuncia probabilmente anche un libro bianco su questo tema, quindi sulla contrattazione decentrata, e questo è un altro tema probabilmente suscettibile di alzare un muro, diciamo, di polemiche, e quindi dobbiamo probabilmente attrezzarci da questo punto di vista a dei mesi difficili, ecco. Sì, tutto questo per un ultimo commento, Guido, come si inserisce in un, non dico la difficoltà, perché a me i sondaggi non interessano molto, per carità, ma insomma, che Renzi sia un po' più cupo, questo possiamo dirlo, cioè probabilmente i dati sull'economia, anzi sicuramente i dati sull'economia non sono quelli che lui si aspettava, e va bene, forse teme anche, non dico adesso, non dico lunedì, ma a febbraio-marzo una bocciatura in Europa, o aspetta di fare la riforma del mercato del lavoro per poi andare in Europa a chiedere reale più flessibilità, perché per ora non si è visto niente. Io credo che oggettivamente Renzi è costretto in questo momento a navigare a vista un po' su tutti i fronti, sui fronti, diciamo, del quadro politico interno, perché deve portare a casa il risultato della riforma della legge elettorale, ha in piedi, come sappiamo, tutte le varie riforme, i vari tronconi delle riforme istituzionali, c'è in pista l'esame parlamentare sulla legge di stabilità, c'è questo confronto acceso con i sindacati, e c'è prima tappa il 24 di novembre, questo esame con la Commissione con la Commissione europea. Vedremo se diciamo filerà tutto liscio o ci chiederanno, diciamo, degli interventi correttivi, e poi tutte le attenzioni si spostano all'inizio dell'anno, quando in attesa di primavera, quando ci sarà il vero, diciamo, giudizio, esame della Commissione europea, e lì effettivamente si potrebbero porsi le condizioni per un cambiaverso della posizione italiana in Europa. Allora, rispondo a un ascoltatore che continua a scrivere: no, non abbiamo mai detto che il problema del paese sia lo sciopero, non per esempio l'evasione fiscale o la classe dirigente spesso incapace. Si sta parlando dello sciopero e si cercava di capire come mai uno sciopero verso due provvedimenti, la legge finanziaria o legge di stabilità come si chiama adesso da un lato, e la riforma del mercato del lavoro o Jobs Act come si chiama adesso dall'altro, che ancora non sono legge e devono ancora passare il cosiddetto iter parlamentare, e quindi non si escludono, anzi, modifiche. Grazie quindi e comunque a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.